ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte, traduzione di Margherita Giacobino. Dopo circa 3 settimane fui di nuovo in grado di lasciare la mia stanza e di muovermi per la casa. La prima sera in cui rimasi alzata chiesi a Catherine di leggermi qualcosa perché i miei occhi non ce la facevano. Scelse uno dei suoi libri preferiti e lesse senza interruzioni per circa un'ora. Poi cominciò a farmi domande. «Non sei stanca, Ellen? Non è meglio che tu vada a letto adesso? Ti ammalerai di nuovo se stai alzata così a lungo, Ellen?» «Ma no, cara, non sono stanca», continuava a risponderle. Vedendo che non cambiavo idea, provò un altro metodo per farmi capire che si era stufata di quell'attività. Prese a sbadigliare e a stiracchiarsi e «Ellen, sono stanca», disse. «Smetta di leggere allora e parliamo», rispose. Fu peggio. Si agitò, sospirò e continuò a guardare l'orologio fino alle 8 e poi andò in camera sua perché crollava dal sonno. C'era però qualcosa di strano nel suo comportamento. Dopo essere rimasta sola per un bel po', decisi di andare a vedere se stava meglio e chiederle di venire a sdraiarsi sul sofà invece di starsene sopra al buio. Ma di sopra non c'era traccia di Catherine. C'era una bella luna chiara e i campi erano velati di neve. Pensai che forse le era venuto in mente di uscire in giardino in cerca di frescura e vidi infatti una figura muoversi lungo il recinto del parco. Ma non si trattava della mia padroncina. Quando uscì in piena luce, riconobbi uno degli stallieri. Rimase per un bel po' a guardare in direzione della strada carraia che attraversava la tenuta. Poi si allontanò velocemente, come se avesse visto qualcuno avvicinarsi, e infine riapparve tenendo per le briglie il pony della signorina, e al suo fianco c'era lei, appena smontata da cavallo. L'uomo condusse furtivamente il pony attraverso il prato, verso la scuderia. Cathy entrò dalla porta finestra del salotto e scivolò senza far rumore fin dove io la aspettavo. Richiuse piano piano la porta, si sfilò le scarpe ancora coperte di neve, slegò i nastri del cappello e senza accorgersi che la spiavo stava per togliersi il mantello quando io mi alzai bruscamente e mi feci vedere. Per un istante fu pietrificata dalla sorpresa, lanciò un breve grido inarticolato e rimase immobile. «Mia cara signorina Catherine, dove se n'è andata a cavalcare a quest'ora? E perché mai cerca di imbrogliarmi raccontandomi storie? Dove è stata?» «In fondo al parco», balbettò. «Non ho raccontato storie. E da nessun'altra parte?» «No», borbottò a mezza voce. «Oh, Catherine!» esclamai rattristata. «Sa benissimo di aver fatto qualcosa di male, altrimenti non sentirebbe il bisogno di mentirmi. Mi sta dando un dispiacere. Preferirei essere malata altri 3 mesi piuttosto che sentirle dire deliberatamente una bugia». Lei fece un balzo in avanti e scoppiando in lacrime mi gettò le braccia al collo. «Ellen, ho tanta paura che tu ti arrabbi», disse. «Promettimi di non arrabbiarti e io ti dirò tutta la verità. Non mi piace mentire». Ci sedemmo vicino alla finestra. La rassicurai che non l'avrei sgridata, qualunque fosse il suo segreto. Naturalmente sospettavo di conoscerlo già. Così lei cominciò. «Sono stata a Cime Tempestose, Ellen, e da quando tu ti sei ammalata ci sono andata ogni giorno, meno 3 volte prima che tu guarissi e 2 volte dopo. Durante la mia seconda visita, Linton sembrava allegro e Zilla ha pulito la stanza e acceso il fuoco per noi e ci ha detto che Joseph era andato a un incontro di preghiere e Ayrton era uscito con i suoi cani a rubare fagiani nelle nostre proprietà, come sono venuta a sapere in seguito. Perciò eravamo liberi di fare tutto quello che volevamo. Mi ha portato del vino caldo e del pan di zenzero ed è stata molto gentile e accogliente. Linton si è seduto in poltrona e io sulla piccola sedia a dondolo davanti al camino. Ne abbiamo riso e parlato allegramente. Avevamo tante di quelle cose da dirci. Abbiamo fatto progetti per l'estate, dove saremmo andati e cosa avremmo fatto. Non è il caso che te li racconti, perché mi diresti che sono stupidaggini. Però una volta siamo stati sul punto di litigare. Lui ha detto che il modo migliore di passare una bella giornata calda di luglio è starsene sdraiati dal mattino alla sera fra l'erica in mezzo alla brughiera, cullati dal ronzio delle api tra i fiori, con le allodole che cantano alte nel cielo azzurro e un sole splendente e senza nubi. Quella era la sua idea di una felicità da paradiso. La mia, invece, era dondolarsi su un albero tutto verde scosso dal vento dell'ovest, mentre nubi bianche e gonfie di luce corrono veloci lassù, e non solo le allodole, ma i tordi, i merli, i fanelli e i cuculi che cantano da ogni parte, e lontano la brughiera, rotta in piccole valli fresche e ombrose, ma vicino un mare di erba alta che ondeggia sotto il vento, e boschi, e suono di acqua che corre, e il mondo intero traboccante di una gioia selvaggia. Lui voleva che tutto stesse fermo in un'estasi di pace. Io volevo che tutto scintillasse e danzasse in una gloria scatenata. Alla fine siamo arrivati a un compromesso. Li avremo provati tutti e due nella stagione giusta per ognuno. A quel punto ci siamo dati un bacio e abbiamo fatto la pace. Dopo essere rimaste sedute per un'ora, ho dato uno sguardo a quella grande stanza, col pavimento liscio e senza tappeti, e ho pensato che sarebbe stata ideale per giocare se avessimo spostato il tavolo. Ho chiesto a Linton di chiamare Zilla ad aiutarci, e poi avremmo giocato a mosca cieca, con lei che cercava di prenderci, come facevi tu, Ellen, ti ricordi? Ma lui non ha voluto. Ha detto che non lo divertiva affatto. Comunque ha consentito a giocare a palla con me. In un armadio ne abbiamo trovate due, in mezzo a un mucchio di giocattoli vecchi, trottole, cerchi, racchette da volano. Su una delle due c'era la sigla C e sull'altra H. Io ho chiesto di avere la C perché stava per Catherine, mentre H poteva stare per Heathcliff, il suo cognome, ma dalla palla con la H veniva fuori la crusca. E a Linton non piaceva. Ho vinto sempre io e lui si è di nuovo arrabbiato, si è messo a tossire ed è tornato in poltrona. Quella sera però era facile farlo tornare di buon umore. Si è lasciato incantare da qualche bella canzone, le tue canzoni, Ellen. E quando sono dovuta andare via mi ha chiesto e supplicato di tornare la sera dopo e io ho promesso. Minnie e io siamo arrivate a casa volando, leggere come l'aria. E fino al mattino ho sognato cime tempestose e il mio dolce e caro cugino. La mattina dopo ero triste, in parte perché tu stavi male e in parte perché avrei tanto voluto che mio padre sapesse dove ero andata e mi desse il suo permesso. Ma dopo il tè c'era un bel chiaro di luna e mentre cavalcavo la malinconia mi è passata. Questa sarà un'altra bella serata, pensavo tra me, e quel che mi fa più piacere e che lo sarà anche per il mio piccolo Linton. Avevo risalito il loro giardino al trotto e stavo girando attorno alla casa per raggiungere il retro quando quel tizio, Ayrton, mi viene incontro, mi prende le briglie e mi dice di passare dalla porta principale. Ha accarezzato il collo di Minnie, ha detto che era una gran bella bestia e sembrava che si aspettasse che io gli dicessi qualcosa. La sola cosa che gli ho detto è stata di lasciare stare il mio cavallo se non voleva essere preso a calci. Mi ha risposto con quel suo accento volgare: se anche lo facesse non mi farebbe tanto male, e ha guardato le zampe del cavallo con un sorriso. Io quasi quasi gliel'avrei fatto provare, ma lui è andato ad aprire la porta. E mentre tirava il catenaccio, ha alzato gli occhi su quell'iscrizione sul muro e stupidamente e con un misto di euforia e di goffaggine mi ha detto: «Signorina Catherine, ora so leggerla!» «Splendido!» ho esclamato. «E allora sentiamo! Certo che sei diventato proprio intelligente!» Strascicando le sillabe, lui ha compilato il nome di Ayrton Earnshaw. «E la data?» l'ho incoraggiato io, vedendo che si era bloccato. «Non la so ancora leggere», mi ha risposto. «Oh, che asino!» ho detto, facendomi una bella risata per la sua incapacità. Quello stupido è rimasto a fissarmi con un sorriso incerto e la fronte aggrottata, come se non sapesse bene se ridere con me o no, se stessi scherzando con lui familiarmente o se lo disprezzassi, come in effetti era. Ho risolto i suoi dubbi ridiventando subito serissima e gli ho chiesto di andarsene perché ero venuta a trovare Linton e non lui. È arrossito. L'ho visto alla luce della luna. Ha ritirato la mano dal catenaccio e se n'è andato via tutto offeso. Immagino che si credesse istruito come Linton solo perché era in grado di leggere il proprio nome ed era assolutamente sconvolto dal fatto che non la pensassi anch'io così. «Un momento, mia cara signorina Catherine», la interruppi. «Non la sgriderò, ma non mi piace che si sia comportata così. Se si fosse ricordata che Ayrton è suo cugino, esattamente come il signorino Linton, si sarebbe resa conto che era molto incivile a comportarsi in quel modo. Se fosse cresciuta lei nella sua situazione, crede che sarebbe venuta fuori meno rozza? Lui era un bambino, sveglio e intelligente, proprio come lei. E mi ferisce il fatto che ora venga disprezzato, a causa dell'ingiustizia che quell'infame di Heathcliff gli ha fatto patire. Ellen, ti prego, non piangerai per questo, vero?» esclamò sorpresa della mia serietà. «Ma aspetta, e sentirai se si è messo a studiare l'alfabeto per farmi piacere e se vale la pena di trattare bene quel bestione?» Sono entrata. Linton era sdraiato sul divano e si è alzato a metà per salutarmi. «Sto male stasera, Catherine, tesoro mio», mi ha detto. «Perciò devi essere solo tu a fare conversazione e io ti ascolterò. Vieni, siediti qui vicino a me. Ero sicuro che avresti mantenuto la tua parola e prima che tu te ne vada ti farò promettere di nuovo di tornare». Ormai sapevo che non dovevo contrariarlo, visto che stava male, quindi parlavo a bassa voce e non facevo domande ed evitavo di irritarlo in qualunque modo. Avevo portato per lui alcuni dei libri miei più belli. Lui mi ha chiesto di leggergli qualcosa e stavo per farlo quando Ayrton è entrato sbattendo la porta. Ci aveva riflettuto sopra ed era inviperito. È venuto verso di noi, ha afferrato Linton per il braccio e l'ha tirato su a forza dal divano. «Vattene in camera tua», ha detto, con una voce che quasi non riusciva a pronunciare le parole dalla rabbia, con la faccia gonfia, furioso. «Portaci anche lei, visto che viene a trovare te. Non voglio dover stare fuori da questa stanza per causa tua. Via, tutti e due!» Si è messo a imprecare contro di noi e non ha lasciato a Linton il tempo di rispondere. L'ha scaraventato in cucina e mentre io lo seguivo stringeva i pugni come se volesse picchiarmi. Per un attimo ho avuto paura e un libro mi è caduto di mano. Lui me l'ha tirato dietro a calci e ci ha chiuso fuori. Ho sentito una risata maligna da cornacchia che veniva dal focolare. Mi sono voltata e ho visto quell'odioso Joseph che si fregava le mani nodose, tutto tremolante. «Ero sicuro che vi avrebbe serviti a dovere. È un ragazzo in gamba, alla tempra che ci vuole. Lui sa, sì, lui lo sa, come lo so io, chi dovrebbe essere il padrone qui dentro. Vi ha fatti correre, Ho ignorato i sarcasmi del vecchio e ho chiesto a mio cugino dove dovevamo andare. Era pallido e tremante. Non era certo carino in quel momento, Ellen, per nulla. Aveva un aspetto terribile. Quella faccia magra e quei grandi occhi erano distorti in un'espressione di furore folle e impotente. Si è attaccato alla maniglia della porta e l'ha scossa, ma era chiusa dal di dentro. «Se non mi fai entrare ti uccido! Se non mi fai entrare ti uccido!» ha detto, anzi ha strillato. «Diavolo, sei un diavolo! Ti ucciderò! Ti ucciderò!» Joseph ha fatto sentire un'altra risata gracchiante Sentilo, ecco suo padre che viene fuori, ha gridato. Ecco suo padre. Tutti prendiamo qualcosa dal padre e dalla madre. Non dargli retta, Ayrton, ragazzo mio, non ti spaventare. Non può metterti le mani addosso. Ho preso Linton per le mani e ho cercato di tirarlo via, ma si è messo a gridare così forte che non ho osato continuare. Alla fine le sue grida sono state soffocate da una tremenda crisi di tosse. Gli è uscito sangue dalla bocca ed è caduto a terra. Sono corsa in cortile terrorizzata e mi sono messa a chiamare a gran voce Zilla. Mi ha sentito quasi subito. Stava mungendo le mucche nel recinto dietro il granaio ed è accorsa chiedendo che cosa succedeva. Non avevo fiato per spiegare. L'ho trascinata dentro guardando dove era Linton. Ayrton era uscito per dare un'occhiata al danno che aveva fatto e stava trasportando di sopra quel poverino. Zilla e io siamo salite, ma lui mi ha fermata in cima alle scale e mi ha detto che non dovevo entrare, che dovevo andarmene a casa. Gli ho gridato che lui aveva ucciso Linton e che io entravo. Mi ha detto che Linton si sarebbe ripreso presto, ma che tutto quel chiasso lo avrebbe disturbato e mi ha portata quasi di peso in sala. Mi sarei strappata i capelli, Ellen. Mi sono cavata gli occhi a forza di piangere, mentre quel delinquente che ti è tanto simpatico se ne stava di fronte a me e di tanto in tanto osava dirmi di piantarla e negava che fosse colpa sua. Alla fine si è tanto spaventato per le mie minacce di dirlo a papà e di farlo mettere in prigione e impiccare che ha incominciato a frignare anche lui ed è corso via a nascondere la sua paura da vigliacco. Ma questo non è bastato a liberarmi di lui. Quando sono riusciti a costringermi ad andare via e mi ero allontanata di appena 100 metri, è sbucato all'improvviso dall'ombra e ha intercettato Minnie e mi ha bloccata. «Signorina Catherine, mi dispiace veramente», ha cominciato. «Ma è una cosa talmente brutta, gli ho dato una frustata, pensando che forse mi avrebbe uccisa». Lui ha mollato la presa, gridando una delle sue orride bestemmie, e io ho galoppato verso casa completamente sconvolta. Quella sera sono venuta a darti la buonanotte, e la sera dopo non sono andata a Cime Tempestose. Desideravo immensamente andarci, ma avevo addosso una strana inquietudine. In certi momenti temevo di sentirmi dire che Linton era morto, e in altri rabbrividivo all'idea di incontrare Ayrton. Il terzo giorno mi sono fatta coraggio. Non sopportavo più di non sapere e sono ripartita di nascosto alle 5 del pomeriggio, a piedi, pensando che forse sarei riuscita a introdurmi inosservata in casa e a salire da Linton. Ma al mio arrivo i cani si sono messi ad abbaiare e Zilla mi ha ricevuta dicendo che il ragazzo si stava tirando fuori bene. Mi ha fatto entrare in una stanzetta ordinata col tappeto sul pavimento, dove con mia inesprimibile gioia ho visto Linton sdraiato su un divanetto, intento a leggere uno dei miei libri. Mi sono accostata al fuoco e ho cominciato a parlare in un tono serio, credendo anch'io, almeno in parte, a quello che dicevo. «Visto che non ti piaccio, Linton, e che ritieni che io venga al solo scopo di farti del male, questo è il nostro ultimo incontro. Possiamo salutarci e di al signor Heathcliff che tu non vuoi vedermi e che non devi inventarsi altre menzogne su questo argomento. Siediti e togliti il cappello, Catherine», mi ha risposto. «Tu sei talmente più felice di me che dovresti essere anche più buona. Papà mi fa notare fin troppo i miei difetti e mi tratta in modo così sprezzante che mi sembra logico poi mettermi a dubitare di me stesso. Mi domando se valgo davvero così poco, come dice lui. E allora mi prende una tale rabbia, una tale amarezza che odio tutti quanti. È vero, valgo poco e ho un brutto carattere e brutti pensieri, quasi sempre. E se è quello che vuoi, dammi pure l'addio. Ti libererai da un fastidio. Soltanto concedimi questo, Catherine. Mi devi credere se ti dico che io vorrei con tutto il cuore avere le tue doti di dolcezza, gentilezza e bontà, ancor più di quanto vorrei essere sano e felice come te. E credimi, la tua gentilezza ha fatto sì che io ti amassi più profondamente di quanto non ti avrei amata se mi fossi meritato il tuo amore. E anche se non posso fare a meno di mostrarti la mia vera natura, mi dispiace e me ne pento, e sarà così finché muoio. Ho sentito che diceva la verità, Nelly, e che dovevo perdonarlo, e che se anche avessimo litigato un minuto dopo, avrei dovuto perdonarlo di nuovo. Abbiamo fatto la pace, ma abbiamo pianto tutti e due per tutto il tempo che mi sono fermata. Non piangevo solo per il dispiacere, però mi dispiaceva davvero che Linton avesse un carattere così difficile. Non darà mai pace a chi gli vuole bene e non ne avrà mai lui stesso. Da quella sera sono sempre andata a trovarlo nel suo salottino, perché suo padre è tornato il giorno dopo. Direi che siamo stati insieme allegri e fiduciosi come la prima sera per non più di 3 volte. Tutte le altre visite sono state tristi, difficili, ora perché veniva fuori l'egoismo e i suoi rancori, ora perché stava male, ma io ho imparato a sopportare sia le fisime sia la sua malattia senza il minimo risentimento. Il signor Heathcliff mi evita di proposito, non l'ho visto quasi mai. Domenica scorsa però sono arrivata prima del solito e l'ho sentito trattare malissimo il povero Linton per come si era comportato la sera prima. Non so proprio come facesse a sapere cos'era successo, a meno che non abbia origliato. È vero che Linton era stato insopportabile, ma questo riguardava solo me e io ho interrotto la sgridata del signor Heathcliff. Sono entrata e gliel'ho detto chiaro. Lui è scoppiato a ridere e se n'è andato, dicendo che era contento che la pensassi a quel modo. Dopodiché ho detto a Linton di parlare a bassa voce quando diceva delle cattiverie. Ecco, e ora Ellen, sai tutto. Non si può impedirmi di andare a Cime Tempestose, a meno di non condannare all'infelicità 2 persone. Invece, basta che tu non lo dica a papà e le mie visite non disturberanno la tranquillità di nessuno. Non parlerai, vero? Saresti senza cuore se lo facessi. Prenderò una decisione domani, signorina Catherine, risposi. Ci devo riflettere, perciò ora la lascio riposare e vado a pensarci. Ci pensai sopra ad alta voce, in presenza del padrone, andando dritta dalla stanza di lei a quella di lui e raccontando tutta la storia, tranne la sua conversazione con il cugino e tutto quello che riguardava Ayrton. Il signor Linton si spaventò e si preoccupò più di quanto volesse ammettere davanti a me. La mattina dopo, Catherine venne a sapere che avevo tradito la sua fiducia e che le sue visite clandestine dovevano finire. Pianse e supplicò invano contro quel divieto e invano implorò suo padre di avere pietà di Linton. Come unica consolazione ottenne la promessa che il padre avrebbe scritto, dando al cugino il permesso di venire alla Grange quando voleva, ma spiegandogli che non doveva più aspettarsi di vedere Catherine a Cime Tempestose.